Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. È questione di ore, è questione di minuti, di secondi ormai. Il live di Chiedo Asilo è stasera alle 21 in via Monterosa, sede di Radio 24. Guarda quanti numeri col 20. Sì. Chi si è prenotato non dia buca, e chi non si è ancora prenotato lo faccia subito mandando una mail a chiedoasilo@radio24.it. Oppure venga comunque, non lo manderemo certo via. Buonasera e vorrei entrare. Ha prenotato? No. Ah, non ha prenotato? No, però io pensavo. E doveva che... prenotare? No, ma mi hanno detto. E devi prenotare. No. Se prenoti, entri. No. Se non hai prenotato, te ne vai. Ma no, tranquilli, non succederà così, perché ci sarà una gentilissima hostess di Radio 24 ad accogliervi. Hai prenotato? No. E se non hai prenotato? No, ma entra, entra. Ah, grazie. Guardo lì, guardo là, vedo fino alla città, sono la piccola vedetta. Ma bambino Alberto, ma sei sempre sull'albero? E per forza, mi sto preparando a fare la piccola vedetta lombarda nella recita dell'asilo. Ah, e quando è? È martedì 22 marzo in Viale Monterosa, Milano. E possiamo venire anche noi? Ma certo che potete venire, anzi portate anche dei vostri amici, eh? Allora è una specie di festa. Io porto l'ukulele. Ma che ukulele? Piuttosto portate pane e formaggini. Vabbè, per pane e formaggini loro devi scendere giù dall'albero, eh. Eh no, io non scendo. Io no, non scendo, resto appeso quassù. Però pane e formaggino è una bella idea. Sì, ma non sull'albero. Non ho paura di volare. Sì, ma stai attento che poi cadi e ti fai male. Da lì è alto, eh. Da qui il mondo è così piccolo. Sì, ma bambino Alberto, smettila di fare il bambino. È un bambino. Ho detto che non scendo neanche se mi paghi l'oro. Sì, ma... Attento. Ho detto. Occhio. Chiedo Asilo Live con Kappa, Drago e con Fabio Calabrò nel ruolo dell'abate Stoppani. E ci sono anch'io! Bambino Alberto, stai bene? Insomma, un po' dolorante, ma... I bambini all'ascolto ci chiedono su Facebook e via mail che cosa si devono aspettare per stasera. Lo sapessimo, glielo potremmo anche dire, sì. Ma siccome non si sa perché lo spettacolo così nasce dal momento. Non facciamo i cialtroni. Comunque sicuramente si devono aspettare un po' di piccola vedetta col bambino Alberto. Dopo il successo della recita all'asilo di giovedì scorso, vogliamo una replica. Sì, però bisogna vedere se il bambino Alberto è d'accordo. Vedremo, chiederemo. Poi i bambini all'ascolto devono aspettarsi i racconti dell'abate Stoppani, H, Fabio, Corio, Calabro. È pronto, abate? Ma certo, signori, prontissimo. Eccolo, dalla caverna. No, vabbè, come sta? Sì, busto, sta bene, capito, è un po' che non parlava. È di marmo. E per presentarmi canterò loro una canzone. Loro chi? Noi. Ah, loro, allora voi. Ma no, è noi. Ma lui dice loro. Com'è? Stai zitto adesso. Sono il fantasma dell'etichetta, lo spirito del busto. Il formaggino, la formaggetta, con l'abitino giusto. Educatore dei miei nipoti e zio della Montessori. Sono un abate, sono di Lecco, Lecco, ecco. E alle cinque giornate ho fatto meglio di tante fiere con mille mongolfiere. Sopra i navigli e le barricate, oltre le cannonate. Sono il fantasma dell'etichetta, lo spirito del busto. Questa l'ha già detta, con la non è che magari un po' rugginito. No, il marmo non arrugginisce. Educatore dei miei nipoti e zio della Montessori. Oh, bravissimo. Bravo. Grazie. Bravo l'abate Stoppani. Da tutto quel marmo, chi l'avrebbe detto? Sotto tutto quel marmo, bravo. Un cuore così. Fabio, Corio, Calabro, H, abate Stoppani. Poi Stoppani. Diciamo che stasera ci sono anche le star bambine, come il bambino Tremonti, il bambino Vasco, il bambino Sgarbi. Insomma, il mondo di Chiedo Asilo trasferito su un palco. Non mancate, lo dica anche lei, abate. Lo dico nel loro interesse, cari nipotini all'ascolto. Loro chi? Stai zitto. La partecipazione allo spettacolo circense di Chiedo Asilo è consigliata a tutti loro affinché prendano coscienza della bellezza di questo bel paese. Ma loro chi? Kappa, è loro. Inutile, lui parla così, rassegnati, è vecchio. Anzi, è già morto. È morto. Senti cosa ti auguro. Che ti cadesse un fulmine da un cielo di tempesta e se oggi il cielo è limpido almeno qualche rondine te la sganciasse in testa. E ora bambini e tutti a casa. Cosa c'è? Ti sei mai chiesto da dove arrivano tutte ste macchine? Ma non lo so, ma che domande sono? Da dove arrivano, dove vanno, chi siamo, dove andiamo? Secondo me sono troppe, per quello che me lo chiedo. Troppe, non c'è asfalto abbastanza per contenere tutte queste macchine. E infatti non si fermano mai, continuano a girare in tondo. Sì, sì. È per forza che girano in tondo. E dove le metti tutte ste macchine se le fai star ferme? Nei parcheggi? Ma quali parcheggi? Nei box auto? Sì, anche. Ma quali box auto? So, ma in realtà tu? Qui siamo al collasso stradale, automobilistico, ma continuiamo a far finta di niente. Ma perché fai questo tono da predicatore? Fai le prediche, mi fai venire i nervi. Mi ricordi il bambino grillo? Ma no, il bambino grillo quando si mette lì che dice perché mi capi? Mi fai venire i nervi, Mi fai venire i nervi. Io ti faccio venire i nervi. Genova nervi. Io ti faccio venire i nervi. Invece stare qui ad aspettare che le macchine ci facciano passare non ti fa venire i nervi. Ma le macchine sono macchine, no? Cars are cars. Quindi cos'è? Le macchine sono macchine, cosa vuol dire? Le macchine, ok, sono macchine. Sta quindi... zitto, Drago, dai. Per favore, fammi una cortesia. Sì. Stai zitto, Aspettiamo, stai zitto. Bravo. Hai visto però? Non, è che se sto zitto le macchine diminuiscono, anzi. Invece se ti lamenti diminuiscono. No, però almeno faccio qualcosa. Allora approfittiamo della presenza del busto dell'abate Stoppani qui per mettere in musica un po' delle sue descrizioni dell'Italia, del bel paese. Le cosiddette cartoline, che poi possono diventare delle quartoline se sono delle quartine, o delle terzoline se sono delle terzine con un verso ripetuto. Vabbè, lascia che vada col blues, Drago. Il bel paese non ha difese, non ha difese, perciò si arrese. Chiedo asilo. Il bel paese è un po' borghese, un po' borghese e un po' cinese. Chiedo asilo. L'abate Stoppani. Il bel paese è un caseario, è un caseario centocinquantenario. Oh yeah! Chiedo asilo. Il bel paese che fatalmente non rende più niente.